Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, l'estate esplosa prepotente nelle nostre case e nelle nostre giornate. Possiamo spostarci un po', non siamo ancora del tutto liberi e soprattutto dobbiamo stare attenti. Ma ci sono soluzioni che mettono insieme l'osservanza delle regole e il desiderio di guardare lontano. Il sommario. Questa settimana, per cominciare, restiamo in Lombardia e vicino Desio andiamo a scoprire Villa Cusani Tittoni Traversi, un altro esempio di come la storia riesca a lasciare il segno attraverso l'architettura. Poi ci spostiamo tra Umbria e Marche per percorrere il cammino francescano della Marca e poi parleremo dei viaggiatori che saremo. Torniamo in Lombardia oggi per andare nella operosa Brianza, che nasconde anche dei gioielli, come questa villa, che a guardarla da fuori sembra più un palazzo, anche piuttosto severo. Linee pulite, squadrate e un interno che non ti aspetti. Villa Cusani Tittoni Traversi è la scelta di questa settimana della nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Questa settimana andiamo in un posto apparentemente strano, Valeria, perché andiamo in Brianza e in particolare a Desio, che, come dicevi tu, insomma, non viene considerata una destinazione privilegiata dai tour architettonici. Invece in Brianza ci sono delle bellissime sorprese in termini architettonici e l'esempio di cui parliamo oggi è uno di questi. Il nome è lunghissimo, poi preparati, poi lo abbrevieremo perché sennò non ne usciamo. Si chiama Villa Cusani Tittoni Traversi. Allora, lo diciamo ogni volta e quasi quasi non ha senso dirlo, però la maggior parte di ville e castelli che ci sono in Italia, dei quali parliamo, hanno nel proprio passato una serie di trasformazioni, distruzioni e ricostruzioni. E Villa Tittoni in questo senso non fa davvero eccezione, perché il nucleo originario lo dobbiamo addirittura far risalire al 200. Quando ad Desio viene edificato un convento francescano, che è la prima base per quella che poi diventerà nel corso di tanti secoli, come vedremo, la nostra villa. Facciamo però addirittura un salto di 4 secoli, quindi passiamo dal nucleo francescano del 200 alla metà del 600, quando uno dei tanti proprietari della villa che si sono succeduti, che era il marchese Ottavio Cusani, acquisisce questi beni immobiliari del convento e decide di trasformarlo in una residenza di campagna, quindi già con un concetto di villa delle delizie. In realtà però Villa Tittoni non acquisisce un aspetto che assomiglia a quello attuale con il primo Ottavio Cusani, ma dobbiamo aspettare ancora un secolo quando un altro Cusani, quindi Ferdinando, prende invece la decisione di ampliare seriamente la villa, dandole quindi a quel punto un impianto proprio monumentale, e per farlo era, lo definiremmo adesso, un archistar, cioè Giuseppe Piermarini, che all'epoca era un architetto famosissimo, che lavorava per la corte milanese degli Asburgo e che praticamente, Valeria, a quell'epoca aveva progettato e costruito mezza Milano e mezza Lombardia, perché parliamo di Palazzo Reale, i giardini di Porta Venezia, la Scala, Palazzo Bello Gioioso e la Villa Reale di Monza. E Piermarini, per costruire, anzi per trasformare ed ampliare Villa Tittoni, si rifà proprio in qualche modo alla Villa Reale di Monza, il che significa che stiamo partendo da un modello piuttosto spettacolare. Due parole velocissime su Piermarini. Piermarini significa fondamentalmente neoclassicismo, che è quello stile settecentesco che è nato come reazione al barocco e al rococò e che ha fatto un passo indietro in sostanza, cioè ha cercato di riprendere le forme architettoniche dell'arte antica, soprattutto quella greco-romana. In sostanza, spessissimo nella storia dell'architettura ci sono queste alternanze tra estremo rigore, estrema ridondanza, tra un sacco di particolari e delle linee rigorose. Il neoclassicismo va in questa direzione. Allora, non stiamo a sviscerare tutto del neoclassicismo in architettura e soprattutto in Lombardia e Milano, perché non è questo il luogo. Diciamo semplicemente che questo stile in Italia è facilmente riconoscibile, facilmente identificabile, perché ci sono sempre degli edifici imponenti, estremamente ordinati, che hanno della simmetria una cifra ricorrente, quindi finestre simmetriche, colonne, timpani, rilievi, statue, molto rigidi e molto molto imponenti. Direi che Livia, Villa Tittoni non fa eccezione, perché se si scorrono un po' di foto, di immagini, la severità è un tratto, è una cifra di questo palazzo più che villa, direi. Tra l'altro mi veniva in mente che il fatto che sia sulla base di un convento francescano praticamente non si nota più. No, no, si è perso il nucleo nel corso appunto di tutti i rimaneggiamenti e ha, come osservavi tu, questa struttura molto rigorosa, molto rigida, molto grande, molto imponente e molto molto ordinata. Viene fatta dal Piermarini con una struttura a U, quindi con un cortile anteriore e dei cortili posteriori. Viene naturalmente creato un parco, che per l'epoca è cosa un po' strana, perché viene fatto un parco all'inglese, quindi non dei giardini all'italiana, un parco all'inglese enorme, che viene affidato a un'altra archistar del momento, che era l'architetto Villoresi, il quale aveva la passione e la specialità delle canalizzazioni d'acqua, tant'è vero che anche nel parco di Villa Tittoni crea un sistema di canalizzazione che dà vita a un laghetto artificiale che adesso non c'è più perché è stato coperto. Quindi Villa Tittoni cresce, si definisce, eccetera, eccetera, però ancora non ha finito di trasformarsi. Perché in sostanza dobbiamo arrivare all'Ottocento, quindi quasi un secolo dopo, perché la villa assuma la struttura che noi vediamo oggi. Questo avviene nel momento in cui ci mette le mani un altro architetto famoso, cioè Pelagio Pelagi, che tende a enfatizzare la struttura e l'imponenza della villa. Quindi aggiunge in maniera importante particolari che richiamano alla classicità. Fa addirittura abbattere e ricostruire le due ali dell'edificio che formavano la U, in modo da aumentare le dimensioni del cortile, incrementando questa sensazione di potenza. Fa poi costruire una cancellata molto, molto complicata, che quindi pone una sorta di vincolo all'accesso anche visivo, e crea colonne, lesene, capitelli corinzi, timpani, pilastri, arcate e statue. Insomma, è una dovizia di neoclassicismo all'esterno. E sottolineo all'esterno, perché Valeria, all'interno Villa Tittoni è completamente diversa, perché all'interno è invece un esempio quasi perfetto di eclettismo. L'eclettismo è uno stile che a me diverte molto, piace molto e diverte molto, perché è uno stile che nasce dalla somma, dalla sovrapposizione, dalla mescolanza, diciamolo come vuoi, di tutte le caratteristiche di stili architettonici precedenti. È uno stile fantastico perché in pratica è tutto il contrario di tutto. E con un gioco di equilibrismo riesce comunque a far convivere delle cose che apparentemente non c'entrano nulla l'una con l'altra e che alla fine nell'eclettismo stanno bene insieme, come si suol dire. A Villa Tittoni, nel piano terreno, troviamo davvero di tutto, Valeria, perché non si sa nemmeno che cosa, nel senso che troviamo neogotico, neobarocco, neoclassico, tocchi di moresco, cioè davvero un insieme di tutti gli stili precedenti. Mi dà un po' l'idea di quei vecchi negozi di antiquariato dove dentro ci puoi trovare qualsiasi cosa. È un'associazione molto calzante, perché davvero ci si trova di tutto. Ti faccio un esempio: la sala neogotica, che già nel nome ci spiega in che direzione sta andando, è sorprendente perché trovi una serie di decorazioni alle pareti con dei motivi scultorei tipici, con delle caratteristiche tipiche del gotico. Poi ci sono, non ridere, una serie di decorazioni che corrono sopra le decorazioni neogotiche, che sono dei topi, quindi ci sono questa specie di figurine di topi. c'è un affresco sul soffitto a tema quattro stagioni. Il pavimento è in mosaico e ha delle citazioni tratte da Ovidio e delle scene di caccia. Poi c'erano, adesso non ci sono più perché sono state smontate e sono esposte al Pol di Pezzoli di Milano, c'erano delle doppie finestre colorate in vetro che rappresentavano Dante, Petrarca, i grandi poeti italiani in compagnia delle figure femminili che li avevano ispirati. Insomma, è un mix abbastanza impegnativo. Un'altra cosa che a me diverte molto è la sala araba, che è totalmente intagliata nel legno e che ha sul suo sito una cosa buffissima, cioè delle scritte apparentemente in arabo che però non significano nulla, cioè nelle quali si è prestata attenzione esclusivamente alla forma e non al contenuto. Quindi, semplicemente per dare l'impressione di essere in una sala araba e morena. Ma non è finita qui, perché all'esterno c'è una torre neogotica, una vera torre neogotica, che è costruita sulle rovine di un precedente campanile e che è perfettamente riconducibile alle linee dell'architettura gotica tradizionale. E poi di nuovo ci sono state delle altre trasformazioni, perché nel Novecento un terzo architetto famoso, quindi Luca Beltrami, è intervenuto aggiungendo e completando il collegamento tra il piano terreno e il primo piano con la costruzione di uno scalone monumentale, che è veramente impressionante e che ancora oggi possiamo vedere. Al piano superiore invece l'eclettismo ce lo dimentichiamo, perché il piano superiore è stato conservato nella sua versione così come era stata pensata da Piermarini e quindi è in stile rococò, per cui abbiamo di nuovo a che fare con quantità enormi di stucchi, affreschi, oro, eccetera, eccetera. Allora, raccontata così, ho la sensazione che tu e molti dei tuoi ascoltatori possano pensare che Villa Tizzoni sia troppo. Troppi stili, troppe tipologie architettoniche, troppe colonne, troppi fregi, troppo. In realtà è sì, molto ridondante, molto sfarzosa, e in certo senso è quasi prepotente nel raccontare potere e ricchezza delle famiglie che l'hanno voluta. Però è anche contemporaneamente un po' travolgente proprio per questa quantità di spunti e di stimoli. Cioè ti sommerge, però riesce anche a incantarti per questa ricchezza. E poi secondo me va visitata anche per un altro motivo, perché è una sorta di meravigliosa linea del tempo architettonica. Perché proprio partendo dal nucleo che ricordavi tu del convento francescano duecentesco, è una sorta di racconto dell'evoluzione che l'architettura ha fatto nel corso di 7 secoli, passando dal rigore francescano, quindi dalla schematicità più assoluta, al più totale affollamento e direi quasi resta di generi e spunti. Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi. Un saluto a tutti voi, di nuovo l'augurio di una buona domenica. In apertura andiamo al nord in Piemonte perché è segnalato circa 1 chilometro di coda causato da un incidente sulla A26, l'autostrada Genova-Gravellona-Toce, tra lo svincolo di Baveno e quello di Carpugnino in direzione di Genova. Rallentamenti invece sulla A4, la Torino-Trieste, per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata tra Ponte Oglio e Rovato in direzione Trieste. Per il momento è tutto, noi ci risentiamo tra circa mezz'ora. Buon viaggio! Globetrotter 24. Hello darkness my old friend. Dalla Lombardia scendiamo verso l'Umbria per parlare di un cammino che arriva nelle Marche sui passi di San Francesco, da Foligno a Muccia, dal convento di San Liberato fino ad Amandola, tra borghi medievali e il Parco dei Monti Sibillini, territori splendidi e ricchi di arte, ma anche comunità che dopo i recenti terremoti hanno ricominciato a vivere. La guida, pubblicata da Terre di Mezzo, è firmata da Luciano Monceri e Maurizio Serafini, ed è proprio Maurizio a raccontarci il cammino francescano della Marca. Restless dreams I walked alone, narrow Il cammino francescano della Marca collega Assisi con Ascoli Piceno, ovvero il luogo del patrono d'Italia, San Francesco, con il luogo del patrono dei terremoti, nonché vescovo tedesco e patrono di Ascoli Piceno, che è Sant'Emidio. Sono 170 chilometri da fare a piedi, gran parte su sterrati, gran parte su sentiero, in zone ovviamente lontane dalle grandi carrozzabili, ed è più o meno organizzato in 8 tappe. Ogni tappa ha delle soste con in ostelli o strutture private o strutture pubbliche. Si può percorrere sia da Assisi verso Ascoli e sia da Ascoli verso Assisi. Ripercorre praticamente il percorso che fece San Francesco nel 1215, quando raggiunse Ascoli per le sue predicazioni. Più o meno quanto è lunga una tappa? Diciamo che abbiamo suddiviso i 170 chilometri in 8 tappe, quindi con una media di 22-23 chilometri a tappa, ma c'è chi le percorre, chi ne percorre anche 35-40 e chi ne percorre 15, quindi diciamo che sia la guida che noi abbiamo appena recentemente stampato, sia il sito che è camminofrancescanodellamarca.it riporta le nostre divisioni, ma ognuno può costruirsi il suo cammino in base alle sue caratteristiche, in base alle sue esigenze e alle sue possibilità. Tu lo definiresti un cammino, diciamo, semplice o quantomeno approcciabile da qualsiasi tipo di camminatore? Beh, diciamo che partiamo dal presupposto che 8 giorni consecutivi di cammino sono destinati a chi ha delle buone motivazioni per camminare. Non è la passeggiata domenicale, questa sicuramente, però rispetto all'idea dei lunghi cammini, dei cammini storici, il cammino francescano ha delle caratteristiche particolari. È abbastanza ondulato, quindi ci sono parecchi saliscendi, ma non ci sono dei grossi dislivelli, nel senso che non si supera mai 1000 metri di altezza e il cammino si snoda intorno ai 500-600 metri di altitudine, quindi ovviamente essendo un territorio collinare pedemontano, chiaro che ci sono delle salite e delle discese, ma non con forti dislivelli, non con diciamo salite o discese impegnative. Considerato il periodo storico che stiamo vivendo, sicuramente quello dei cammini può essere una possibilità per l'estate che si sta avvicinando. Secondo te quali sono i punti di maggior, mi viene da dire bellezza, anche se non è forse il termine più adatto perché magari tutto il cammino è bello, però quelli che secondo te vale di più la pena fare? Allora, partiamo dal presupposto che tutto il territorio marchigiano e umbro presenta una caratteristica unica in Italia e forse nel mondo, cioè queste colline interamente lavorate come se fossero dei grandi giardini, quindi camminare già in un ambiente così curato, così verde, così bello organizzato anche esteticamente a vedersi, con immaginate fioriture di girasoli, che messi di grano e una cura che proprio che è nell'animo della popolazione umbra e marchigiana, che è la cura del proprio territorio, già predispone l'animo a una bellezza che appunto ritroviamo anche nel Cantico delle Creature di San Francesco. Diciamo di luoghi belli ce ne sono tanti, perché si attraversano 4 parchi e parliamo ad esempio del Parco del Subasio, la riserva naturale dell'Altolina, cioè la Valle del Menotre, dove ad esempio si cammina questa Valle del Menotre accanto a dei salti di cascata di acqua sorgiva purissima, quindi ecco, immaginate che si sale con questo scrosso continuo d'acqua, con questo diciamo paesaggio straordinario di cadute d'acqua e cascate e forre. Poi abbiamo il terzo parco, che è un parco diciamo protetto da Ramsar, che è un parco destinato agli uccelli migratori, che è il Parco di Colfiorito, dove ci si affaccia e si può guardare la vita degli uccelli migratori che nidificano là. e il quarto parco ovviamente è il Parco Nazionale dei Sibillini, che non solo si attraversa ma si circunnaviga quasi interamente da nord a sud, quindi solo gli aspetti naturalistici valgono il viaggio. Poi ci sono le caratteristiche storiche architettoniche, perché passiamo in un territorio antico, ancora non distrutto dalle guerre, dai bombardamenti, quindi paesi medievali, città ancora intatte e meravigliose come Ascoli Piceno, come la stessa Assisi, come Spello, come Foligno, Sarnano, che è un centro medievale dove tra l'altro furono scritti i fioretti di San Francesco, e il libro, uno dei libri più tradotti e venduti nel mondo, e ognuno di questi centri racconta della sua storia, quindi si parte addirittura dagli insediamenti preromanici, dai romani, dal periodo medievale, il periodo rinascimentale e barocco, quindi si attraversa la storia dell'uomo in centri e in vestigia storiche che forse ancora sono poco conosciute ma che valgono assolutamente la pena scoprire. E poi non dimentichiamo l'aspetto importantissimo del cammino, che è l'accoglienza e l'aspetto antropologico, perché si attraversano territori che servono gelosamente ancora delle culture enogastronomiche, dove si può mangiare ancora dei prodotti genuini, biologici, a chilometro zero, cito le patate di Colfiorito, i tartufi bianchi e neri, cito i pecorini, i prodotti caseari, le mozzarelle, eccetera, eccetera. Ma cito anche poi la qualità antropologica dell'uomo, che si è armonizzato perfettamente con queste colline, con lo stanziamento in questo territorio, che non è stato, grazie anche al basso insediamento, no, e alla bassa concentrazione antropica, non è stato danneggiato, quindi si può godere per chilometri di aria pura, acqua pura e meraviglie del creato. TTG Travel Experience è la manifestazione italiana per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la promozione dell'offerta turistica italiana nel mondo. Il prossimo ottobre a Rimini è probabile che qui gli operatori si troveranno a confrontarsi su un mondo capovolto per quanto riguarda il turismo. Noi ne abbiamo parlato con Gloria Amiri, che è la brand manager. Il trend che si profila arrivare in questo periodo è sicuramente un trend che era già iniziato e che ha subito un'accelerata grazie al Covid, nel senso che poi la sostenibilità e la volontà di essere a contatto con la natura sarà sempre più forte e sarà anche obbligata purtroppo. E di fatto sicuramente gli italiani sceglieranno dei viaggi di prossimità, sceglieranno dei viaggi a contatto con la natura e dei viaggi che magari dopo questo periodo un po' sedentario che abbiamo tutti un po' accusato nelle nostre case, avrà bisogno anche di muovere il corpo, quindi grande spinta su cicloturismo, grande spinta su trekking e su tutto quello che può essere uno sport, un'attività fisica distanziata ma con una messa in sicurezza, quindi con dei distanziamenti tra persone che la montagna in questo caso può garantirci. Voi avete un punto di vista particolare, privilegiato e quindi un osservatorio particolare. Ritieni che questo trend sia un trend che poi porteremo avanti anche nei prossimi mesi, mi verrebbe da dire anche nei prossimi anni, perché comunque dobbiamo avere uno sguardo lungo? Assolutamente sì, il tema della sostenibilità è un tema che per fortuna dovrà essere sviluppato nel medio-lungo periodo. Abbiamo visto anche gli incentivi sulle biciclette elettriche che dovranno esserci. Tutto questo ci aiuterà a rispettare la natura, no? Ad essere molto anche attenti al tema della salute e quindi tutto questo trend sarà l'inizio di una grande bella storia. Di fatto, andando più là con il periodo e pensando a dicembre e gennaio, quindi le vacanze invernali 2020, probabilmente lì bisognerà auspicare che le compagnie aeree e i compagnie aeree e gli aeroporti siano attivi al 100%, perché poi cicloturismo sì, ma c'è bisogno di una bella stagione. Di fatto il lungo raggio sarà fondamentale riprenderlo, e riprenderlo certo mantenendo le driver di sicurezza che ci vengono imposte, sicurezza sanitaria, distanziamento, mascherine eccetera, però bisognerà avere il coraggio e la voglia, ma la voglia quella non credo che manchi, di risalire su un aereo e andare nei mari tropicali o insomma dove i tour operator italiani hanno una programmazione di tutto rispetto. Tu parlavi di le prossime vacanze di Natale, quindi dicembre, gennaio, e noi ci auguriamo ovviamente di poter tornare a viaggiare già per quella data. Realisticamente, verosimilmente, secondo te quando è che le stagioni riprenderanno davvero vigore? Sicuramente l'estate, la Summer 2020 sarà molto tiepida e contemplerà solo poche settimane, alcune settimane di agosto, le centrali. A Natale ci sarà la ripresa dei coraggiosi, di quelli che vogliono osare, che vogliono andare, ma le prime vere prenotazioni partiranno, saranno veramente legate a una spring, una primavera 2021. Di fatto io mi aspetto che il turismo, che è messo in ginocchio, perché veramente è stato un settore che ha subito molto il tema del Covid, possa riprendere il suo ritmo normale o pseudo normale già a partire da marzo-aprile 2021. Avete delineato un turista, un viaggiatore anche diverso, cioè con delle richieste diverse rispetto al passato? È un viaggiatore più consapevole, è un viaggiatore più attento. È un viaggiatore che deve instaurare un rapporto con le aziende di turismo di totale fiducia, perché dobbiamo bypassare la paura, no? Quella che in questi mesi abbiamo accumulato. Quindi di fatto se si parla di hotel, se si parla di strutture extra alberghiere, di ville, di bed and breakfast, di relè, dobbiamo essere certi che queste strutture vengano siano garanzia di sicurezza sanitaria. Quindi io mi aspetto assolutamente che ci sia un'attenzione in questo senso da parte dell'ospitalità e del turismo in generale, però anche il consumatore dovrà spingersi un po' più là, perché bisogna un po' accelerare il tutto. Ci fermiamo qui. Se volete scriverci, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.